Salva Danaio di Deborah Rosciani. E da Deborah Rosciani buona giornata a tutti, ben ritrovati a Salva Danaio ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Da qualche tempo, lo abbiamo fatto anche ieri, parliamo forse un po' sempre delle stesse tendenze, rimarcandole, analizzandole per lungo e largo, e cioè parliamo di cosa stanno facendo i risparmiatori da qualche tempo a questa parte, risparmiatori che sono a caccia di investimenti poco rischiosi, investimenti prudenti, un'attitudine che si è evidentemente enfatizzata e non poco con la crisi degli ultimi anni, crisi che ha mandato la borsa sulle montagne russe, che ha schiacciato i rendimenti dei titoli di Stato di alcuni paesi e reso pericolosamente invece alti e aggressivi i rendimenti di altri paesi, e quindi l'incertezza, lo sapete bene, regna ancora perché la raccontiamo tutti i giorni. C'è un settore che però in Italia non conosce crisi, che ha mutato molte delle sue caratteristiche più note e passate proprio per accontentare un numero crescente di risparmiatori, che è quello delle polizze vita. L'anno appena trascorso, il 2010, è stato davvero importante per il settore, stando ai dati resi noti dall'ANIA, l'associazione delle compagnie di assicurazione, si sono potuti registrare degli importanti balzi in avanti nelle sottoscrizioni, che non solo hanno tenuto bene rispetto alla crisi molto difficile del momento, ma è anche riuscita ad ottenere dei risultati positivi in termini assoluti. Le imprese del settore sono state in grado di raccogliere nel 2010 premi per un ammontare complessivo che ha sfiorato i 64 miliardi di euro in Italia. A cosa si deve questo significativo aumento? E visto che, come dicevamo prima, negli anni le polizze vita hanno cambiato faccia assumendo sempre di più contenuto finanziario, e allora come facciamo a capire bene come funzionano questi prodotti? Cosa dobbiamo chiedere per farci spiegare bene l'erogazione delle prestazioni di questi strumenti di investimento, e come facciamo a capire qual è lo strumento adatto a noi? Stamattina a Salva Danaio ritorna Federica Pezzatti, Plus 24 e Il Sole 24 Ore, proprio la donna delle assicurazioni. Tra l'altro non mi ricordo, Federica, adesso qui faccio una figuraccia, se va ancora avanti la rubrica polizze chiare. Sì, sì, certo, quella ormai in cavallo di battaglia. Perché c'è molto bisogno di consulenza anche sui prodotti in scadenza, piuttosto che sui rinnovi che le compagnie stanno proponendo in questo periodo. Perfetto. E poi saluto e ringrazio per essere con noi Maurizio Pellicano, direttore generale di BNL Vita. Benvenuto. Buongiorno Rosciani, a lei, alla Pezzatti e naturalmente agli ascoltatori. Allora, ovviamente, microfoni aperti per tutte le vostre domande sull'argomento di questa mattina. 800 24 00 24, chiamateci per intervenire in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Proprio magari per rispondere al punto che ci ha evidenziato Federica poco fa, se avete un prodotto in scadenza e magari la compagnia vi sta proponendo un rinnovo con un prodotto magari che ha delle caratteristiche diverse a quello che è appena esaurito il suo effetto, insomma, magari che tipo di domande vorreste fare al vostro consulente, e stamattina, se volete, insomma, potremo darvi qualche indicazione, almeno speriamo di poterlo fare. Prima di partire con la nostra trasmissione, un'occhiata alla borsa, ma insomma la tendenza l'avete sentita anche nel giornale radio, borsa abbastanza ferme questa mattina. Il mercato dà per scontato questo aumento dei tassi di interesse che arriva oggi dalla Banca Centrale Europea, presumibilmente, se un pochino ho imparato a conoscere le dinamiche del mercato finanziario, il mercato attende la conferenza stampa del governatore della Banca Centrale Europea Trichet per capire che cosa dirà relativamente alla politica monetaria nell'Eurozona, se ha intenzione di proseguire sulla strada dei rialzi, se darà qualche indicazione chiara su quante manovre intende fare da qui alla fine dell'anno. Il mercato ne sconta almeno altre due, quindi un 0,75% di rialzo complessivo da qui a dicembre, ma insomma è l'uomo delle sorprese Trichet, e quindi potrebbe anche dare un orientamento diverso. Milano più 0,19% sugli scudi, di nuovo tutto il comparto bancario ed assicurativo, con Fondiaria che guadagna il 3%, Monte dei Paschi più 2,40%, Intesa l'indomani del varo del maxi aumento di capitale da 5 miliardi più 2,23%, Parmalat torna a crescere più 1,59%, Azimut più 1,49%, poi i grandi protagonisti della seduta da ieri e anche oggi, Generali più 1,19%, Mediobanca più 0,72%, all'indomani appunto delle clamorose dimissioni di Cesare Geronzi dalla presidenza del Leone di Trieste. Domani vedremo i grandi azionisti appunto quale altro presidente esprimeranno. Detto questo, l'euro sul dollaro 1,42,72, questi sono un po' i temi della giornata, magari un'occhiata anche ai peggiori titoli. Luxottica perde il 2,33, Pirelli meno 1,95, scendono tutti gli altri titoli industriali, Fiat Industrial meno 1,94, Tenaris meno 1,66, l'azionista di riferimento Fiat Exor meno 1,63, TOTS meno 1,44%, Buzzi meno 1,40%, Saipem meno 1,40%. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, il punto sulle polizze vita. Desiderio di protezione e di maggiore garanzia per il futuro. Queste le linee guida che hanno spinto sempre più risparmiatori italiani ad investire parte del proprio portafoglio in polizze vita. In seguito alla recente crisi finanziaria, infatti, il mercato ha assistito a un'imponente ricomposizione del portafoglio dei risparmiatori, che alla ricerca di capitali garantiti si sono indirizzati appunto verso questi strumenti. Le polizze vita prevedono in sostanza che la compagnia assicurativa si impegni, dietro la corresponsione di un premio, a liquidare al beneficiario titolare della polizza un capitale in un'unica soluzione o attraverso una rendita, in seguito a un accadimento relativo alla vita dell'assicurato. Una polizza vita costituisce sia uno strumento importante per far fronte ai problemi economici che possono derivare dalla morte di un membro della famiglia, sia uno strumento sicuro per garantirsi una pensione integrativa. E i rendimenti non sono certo da buttare. Nel 2010 le polizze rivalutabili hanno portato a casa in media un 3,4% netto, con punte che sono arrivate anche al 5%. Le rivalutabili garantiscono inoltre, almeno per i contratti più vecchi, la possibilità di detrarre il premio nella misura del 19%, fino a un massimo di 1.291 euro all'anno. Anche per questo sono il prodotto di punta fra tutte le polizze vita. Anche se negli ultimi mesi si è assistito ad una ripresa di quelle a maggiore impronta finanziaria, come le unit linked, agganciate a fondi comuni di investimento o SICAV. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. C'è Nicola che subito ci scrive: aumentano le polizze anche perché le banche le rendono obbligatorie per i mutui. Beh, questa non è una tendenza recente, ma non credo che per proteggere la causa o dal rischio di non pagare più il mutuo le banche facciano sottoscrivere delle polizze a contenuto finanziario, delle rivalutabili. Federica Pezzati. Beh, no, lui forse fa riferimento alle, alle polizze credit protection. Quello, infatti, ultimi dati dimostrano che ormai, col rischio diciamo imminente di nuovi subprime, perché comunque la situazione economica è abbastanza precaria, le banche si tutelano insomma il proprio capitale e i mutui con strumenti protettivi che, in un certo senso, se fossero un po' meno cari e più trasparenti, consentirebbero anche in Italia una maggiore, un maggiore utilizzo del settore delle polizze di protezione to cure, che sono appunto molto indispensabili soprattutto per una popolazione ancora sprovvista di protezione come quella italiana. E infatti, tra l'altro, questo è oggetto, me lo stava suggerendo adesso il dottor Pellicano di BNL Vita, direttore generale di BNL Vita, ma ci abbiamo dedicato anche delle trasmissioni apposite a questo argomento. L'ISVAP fa un monitoraggio del settore molto stringente, giusto? Sì, assolutamente. È stata molto chiara con il regolamento 35, peraltro riproposto due volte per maggiore garanzia. C'è stata tutta una problematica con il TAR del Lazio, insomma, tutta una serie di ricorsi. Direi che è definitiva nella indicazione che non possono le banche far sottoscrivere obbligatoriamente la polizza e esserne contestualmente beneficiari. Esattamente, quindi il tema del conflitto di interessi, l'ISVAP era intervenuto soprattutto su questo punto, ma magari ci ritorniamo più avanti. Detto questo, dottor Pellicano, visto che l'ho già coinvolta, andiamo un po' a monitorare invece la tendenza sulle sottoscrizioni di polizze vita. Adesso, magari osservando anche quello che succede in casa vostra, la crescita delle sottoscrizioni di questi prodotti di investimento è esclusivamente riconducibile alle incertezze provocate dalla crisi, o le famiglie italiane hanno comunque una esigenza di natura diversa? In sostanza, i vostri osservatori che cosa raccontano? Ma Rosciani, veda, io credo che ci siano due fattori. Il primo, stiamo parlando di assicurazioni, sembra strano, ma già nella parola, voglio dire, c'è qualcosa di rassicurante, e evidentemente i prodotti che sono stati venduti in questi ultimi 10 anni hanno cercato veramente di poter garantire al cliente e quantomeno la certezza del ritorno del capitale investito, e possibilmente con dovuti interessi laddove evidentemente gli investimenti erano opportuni. E secondo, evidentemente il settore è abbastanza anticiclico, quindi proprio in fase di crisi è un settore che ha un particolare sviluppo proprio per questa tipologia di garanzie. È ovvio che peraltro le compagnie, compresa la nostra, ha dedicato particolare attenzione nella tipologia di investimenti e quindi nella proposizione dei prodotti ad offrire proprio sicuramente un rendimento garantito e, laddove era possibile, sfruttare una componente nella parte più strettamente finanziaria che in caso di ripresa dei mercati avesse consentito di accrescere questo rendimento. Quindi le due componenti, garantita e la componente, diciamo, finanziaria, quindi con un coefficiente di rischio leggermente superiore alla prima, laddove però i mercati fossero stati soddisfacenti, avrebbe potuto consentire e ha consentito. Queste, per essere chiari con i nostri ascoltatori, sono le cosiddette rivalutabili, dottor Pellicano? Sì, la parte di base sono le rivalutabili. Alcune compagnie hanno portato avanti però un discorso di combinare la polizza rivalutabile con una componente assicurativa, chiamiamola, di maggior rischio finanziario, ancorché controllato e ancorché a scelta anche del cliente e o del gestore che evidentemente si occupa del prodotto, e quindi base rivalutabile più base di rischio finanziario, combinandole insieme. Il nome sotto il quale vanno questi prodotti si chiama multiramo. E così forse la nostra compagnia, anche forte dell'esperienza di uno degli azionisti internazionali BNP Paribas, ha appunto introdotto per prima sul mercato questa tipologia di prodotto che sta dando grosse soddisfazioni ai clienti innanzitutto e anche alla compagnia. Che tipo di durate hanno queste polizze? Quanto impegnano i sottoscrittori? Direi che la durata ormai per scelta non esiste più come limite, né inferiore né superiore, per la semplice ragione che ipotizziamo sempre una durata a vita, cosiddetta vita intera, ma sul piano tecnico non significa niente. Significa dire non c'è limite se il cliente vuole rimanere n anni, ma non c'è limite se il cliente vuole uscire dopo 6 mesi. Quindi non ci sono vincoli temporali né in ingresso né in uscita, e quindi direi che dovrei risponderle tecnicamente: è una vita intera con possibilità di uscita immediata. Ecco, incredibile. Federica Pezzatti, allora aiutami a fare un po' il grillo parlante naturalmente di questa mattina, perché ti ho chiamata apposta per, certo, essere cattiva laddove io non riesco ad esserlo. Ormai. Quali criticità hanno questi prodotti secondo allora, te? Allora, innanzitutto partiamo dal risultato che tu prima hai citato, che è superiore al 3%. Si tratta chiaramente di rendimenti netti che vengono acquisiti per sempre, questo è importante, senz'altro un fattore positivo, perché a sua volta questi rendimenti vanno a far parte del nuovo capitale che si rivaluta di anno in anno. Questo è il fattore positivo. Il fattore negativo è che comunque noi ragioniamo su 100 lire investite che non sono interamente devolute a maturare interessi, ma ci sono dei caricamenti iniziali che soprattutto per i vecchi contratti, tu prima citavi quelle vecchie polizze che hanno ancora la detraibilità fiscale, sono comunque polizze sicuramente più onerose, me lo confermerà anche il dottor Pellicano, penso, rispetto a quelle attuali, che invece sono meno gravate da costi. Quindi guardare sempre quanto del premio versato viene investito realmente proprio va a produrre capitale. Infatti, va a produrre interessi. Che, peraltro, se non mi ricordo male, sono soprattutto presenti nei primi anni, diciamo, di versamento, oppure adesso c'è anche una situazione di... Sì, diciamo che ci sono comunque, su ogni premio una parte va comunque alla compagnia. Poi parlando invece degli altri prodotti, anche delle unit che adesso vengono garantite, anche lì ci sono dei costi impliciti da conoscere, anche sulle index, che c'è ancora qualcuno che propone index, che comunque nei primi anni il riscatto è molto penalizzante, quindi salvo quei prodotti come forse anche quelli di BNL, io non conosco nel dettaglio, che non hanno più penalità di riscatto, andare sempre a guardare se questi soldi io li devo mantenere per un tot di anni come minimo. È meglio appunto calcolare sempre il proprio orizzonte temporale, certo, perché nei primi anni spesso ci si trova su prodotti assicurativi che possono essere riscattati, però c'è comunque una penalità. È una penalità molto forte. Poi diamo anche le definizioni per chi non le conoscesse delle polizze unit index linked, per capire appunto a che cosa è agganciato il rendimento di questi prodotti di investimento. Adesso dobbiamo già andare in pausa, abbiamo pronto anche un ascoltatore, Giuseppe da Milano, ma anche tante osservazioni interessanti al 349-238-6666. Un minutino di pazienza, torniamo subito. E Salva Danaio riprende. Questa mattina tocca il tema della sottoscrizione da parte di un numero ecco che qua sto rompendo anche una sedia stamattina, spostandomi proprio un elefante in un negozio di cristalleria. Parliamo di polizze vita perché abbiamo manifestato appunto la tendenza che ci ha raccontato l'ANI, l'associazione delle imprese di assicurazioni, come in questi anni, anche complice la crisi o a causa della crisi, molte più famiglie sono andate alla ricerca di questi strumenti di investimento per proteggere i propri capitali, anche se sono strumenti di investimento che hanno notevolmente elevato il loro contenuto finanziario da qualche anno a questa parte. Quindi allora stamattina ci stiamo un po' interrogando anche sulla ragionevole consapevolezza da parte di chi vuole questi prodotti rispetto appunto alle caratteristiche in termini di costo, ma anche proprio di dinamica di erogazione delle prestazioni e come dire manifestazione dei propri rendimenti. Con noi Federica Pezzatti, Plus 24 del Sole 24 Ore, Maurizio Pellicano, direttore generale di BNL Vita. Allora, prima eravamo rimasti sospesi al tema dei caricamenti di queste polizze, che naturalmente possono essere diversi, sono molto alti all'inizio dei versamenti, appunto dei premi delle polizze di cui stiamo parlando questa mattina. Mi suggeriva il dottor Pellicano, molto spesso questi caricamenti, anzi, sono quasi sempre determinati nella percentuale anche dal canale distributivo che la compagnia utilizza per vendere i suoi prodotti, dottor Pellicano. Esattamente, è chiaro che il canale di vendita differenzia i costi e, devo dire, differenzia anche, almeno sulla carta, i servizi. Mi spiego meglio: un agente di assicurazione probabilmente fa una consulenza al cliente e purtroppo la fa pagare in termini di caricamenti. Spiego molto più semplicemente quanta parte delle 100 lire di premio, dei 100 euro di premio vengono detratte, retrocesse a lui, questo è brutalmente. Se trattasi di promotore finanziario, è un altro tipo di consulenza, probabilmente anche più globale, che va al di là dell'assicurazione, ma riguarda anche investimenti più critici e più rischiosi, e quindi anche in questo caso c'è un costo, può essere significativo, ma in genere è minore di quello dell'agente d'assicurazione. Poi abbiamo il canale banche, o come si dice, delle compagnie di banca assicurazione, dove in realtà non c'è nessun pagamento a colui che offre il prodotto, essendo questi un dipendente in genere dell'istituto. In più aggiungo che in particolare i prodotti di banca assicurazione, ormai quasi tutti da parecchi anni, non hanno più commissioni di acquisto, cioè quel costo che viene fatto pagare all'acquisto e che va a detrarre la parte investita. Mm-hmm. I 100 euro investiti, 10 dovessero andare in commissioni, è evidente investe 90. Non essendo nella banca assicurazione ormai quasi più il caricamento di acquisto, vengono investite le 100. Questo non solo consente una maggiore profittabilità alla fine per aver investito di più, ma dove che guadagna evidentemente l'assicuratore, il banca assicuratore, sulla gestione, cioè dopo un anno, in funzione di quelli che sono stati i risultati, ha un caricamento che viene specificato prima, non viene indicato in polizza obbligatoriamente, molto chiaro, e che evidentemente però è meno impattante. Certo, questo spinge quindi ad agganciare la polizza magari a, come dire, settori di investimento che possono garantire una copertura di questi costi, c'è più stimolo ovviamente. Sicuramente è anche interesse dello stesso assicuratore nei confronti del cliente ovviamente potergli far recuperare nel più breve tempo possibile quel costo di gestione, che però, ripeto, la compagnia acquisirà dopo 12 mesi, il che significa che ha massimizzato l'investimento l'assicurato, e nello stesso tempo può investire l'assicuratore in prodotti che gli consentono di far recuperare immediatamente. Tanto per dare dei riferimenti ai nostri ascoltatori, esiste sul mercato, che comunque è estremamente eterogeneo perché ci sono tantissime compagnie, tantissimi prodotti, un range di riferimento a cui prendere appunto proprio per avere un quadro dei caricamenti praticati sulle polizze vita appunto vendute nel nostro paese, dottor Pellicano? Non lo so, per esempio, perché magari così mi immagino una persona che sia adesso alle prese con una richiesta di consulenza al suo promotore o al suo assicuratore, appunto, e magari si sente sparare un costo di un certo tipo per capire se può rientrare appunto in un range di riferimento questo costo. Che cosa potete dirmi a questo proposito? Allora, facciamo una domanda a entrambi. Sì. Stabiliti diversi canali, possiamo passare da punte del 15% del premio, quindi vedi agenti, promotori 10-12, ma a zero di acquisto per quello che riguarda la banca assicurazione. Nella gestione, evidentemente, per la parte agenti non c'è nessun costo, perché possono esserci delle commissioni di incasso qualora si preoccupi l'agente di presentarsi ogni anno dal cliente per incassare il premio, ma sono abbastanza marginali. Così come il promotore, mentre la banca assicurazione può guadagnare dallo 0,80 all'1,10, l'1,20 sulla gestione, sull'insieme, quindi del maturato. Federica, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere questo. Sulla trasparenza di questi, insomma, in questi anni ne abbiamo fatta, abbiamo fatto passi da gigante. Pensiamo che quando abbiamo iniziato, insomma, abbiamo, se parliamo di 10-15 anni fa, dopo, prima del 95 per intenderci, non era neanche possibile conoscere i costi, salvo espressa domanda alla compagnia. Sui prospetti non c'era neanche minimamente accenno ai costi. Oggi l'ISVAP ha fatto veramente un grande lavoro, perché abbiamo senz'altro un indicatore principe, che è l'indicatore sintetico di costo. Con quello, che viene per forza inserito nel prospetto, si ha l'idea di quanto percentualmente incidano i costi complessivi sul prodotto. Quindi avrò, per dire, se ho un 1,5% annuo di indicatore sintetico di costo, vuol dire che il rendimento del mio prodotto sarà ridotto di quella percentuale. Io direi che dobbiamo proprio invitare chi deve valutare un investimento a leggere i prospetti. Tutti stanno facendo uno sforzo per renderli più comprensibili, e quindi gli strumenti per conoscere i prezzi dei prodotti adesso ci sono. Tra le altre cose, in alcuni prodotti, per dire quelli sotto il controllo Consob, che sono le unit, le index linked, c'è anche l'obbligo di indicare quanto viene retrocesso al collocatore, in modo che il cliente possa percepire il conflitto di interesse che comunque ha il venditore in questo contesto, e avere quindi anche un'esigenza di consulenza magari diversa a seconda, esatto, del collocatore con, ecco, il quale si sta confrontando. Teniamo presente che i documenti ci sono e vanno guardati. È uno sforzo, però quando si acquista una macchina si conosce a memoria tutte le prestazioni, anche per i propri soldi bisogna fare un sacrificio. Il classico esempio che facciamo sempre: se compriamo il telefonino magari siamo capaci di girare 200 centri commerciali prima di arrivare a quello finale. Perché non dimentichiamo che una buona gestione finanziaria ti può consentire di comprarti un telefonino in più all'anno minimo, no? Cioè, voglio dire. No, tra l'altro, guarda, siccome eravamo rimasti in sospeso anche su questo, per chi non conoscesse esattamente le dinamiche, il funzionamento e le caratteristiche di questi prodotti, ricordiamo proprio in 3 secondi, Federica, le definizioni di polizza unit linked e index linked, perché qui abbiamo praticamente possibile rendimento agganciati a due. Diciamo che le index linked ormai sono in via di estinzione, poiché i regolamenti nuovi varati dopo Lehman hanno imposto alle compagnie di dover dare maggiori garanzie, garantire in proprio questi prodotti, quindi sono diventati molto costosi e di fatto in pochi le propongono, perché alla fine alla compagnia non conviene più. Non sono state sostituite da altro? Ci sono, Poste Vita ne fa molte, però Poste Vita diciamo che dopo perché è comunque tali volumi che riesce a spuntare evidentemente anche dei buoni contratti, delle buone coperture. E diciamo che invece le unit sono un prodotto che in futuro avrà senz'altro più peso, in quanto con Solvency 2 le compagnie non potranno più permettersi di vendere troppe polizze tradizionali, perché dovranno, avendo un minimo garantito, queste polizze sono molto onerose e quindi la compagnia dovrà mettere maggiori riserve patrimoniali. Esatto. È l'equivalente di Basilea 2 per le banche. Di conseguenza le unit linked, che sono polizze a rischio aperto, salvo che ci siano delle garanzie complementari, saranno il prodotto del futuro, per cui bisogna iniziare a approcciarsi anche a questo strumento nella nuova era, perché comunque, per ovviare ai problemi che ci sono stati in passato, le compagnie offrono anche garanzie di rendimento, di conservazione del capitale. Ecco. Benissimo. Allora, dottor Pellicano, adesso invece che fare il manager le faccio fare il consulente, le faccio sentire la domanda, la questione che ci pone Giuseppe da Milano all'800240024, che saluto. Giuseppe, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Niente, io ho una polizza vita che mi dovrebbe scadere nel 2015, quindi era della durata di 25 anni. Adesso è in scadenza, mi hanno chiamato e mi hanno proposto una nuova polizza, di chiudere la vecchia, di aprirne una nuova, con scadenza anch'essa di 25 anni, però della vecchia praticamente mi restituiscono il capitale che io ho versato, senza una lira di interesse. Volevo chiedere, cioè loro mi hanno detto che, perché io gli ho chiesto questa cosa degli interessi, mi hanno detto che il massimo che potevano fare è questo, volevo sapere se... Guardi, intanto aspetti lì così magari cerchiamo di capire se abbiamo bisogno di ulteriori informazioni. Mi pizzica la lingua perché vorrei tanto sapere il nome della polizza e della compagnia, ma per adesso cerchiamo di, come dire, calmarci. Dottor Pellicano, allora, che tipo di polizza ha questo nostro ascoltatore? Una brutta polizza, sicuramente una brutta polizza. Noi gli diamo questa brutta notizia, magari. Mal proposta probabilmente a suo tempo, perché una polizza di durata 25 che restituisce solo il capitale versato. Spero che si sia almeno rivalutato l'inflazione, banalmente, diciamo, almeno questo. Almeno banalmente, o il gestore che sottostà, diciamo, a questo tipo di prodotto ha lavorato molto male, o non si spiega per quale ragione. Allora, i costi però magari 25 sono anni fa, sì, certo, era ragionevole pensare che si accantonasse solo per veramente proteggere quanto si versava. Non c'era forse, come dire, una smania di rendimento più alto? È una battuta, ma nella battuta c'è della verità. Insomma, quando, ahimè, ero molto più giovane, vendevano le polizze garantite al 4% quando l'inflazione era a due cifre e al secondo, alla seconda decina, quindi l'inflazione al 22-23, il 4% lo davano. Quindi non riesco a capire, dopo 25 anni, una polizza che non... No, tra l'altro il fatto che lo chiamino a 4 anni dalla scadenza è pure una prassi abituale delle compagnie di assicurazione? Oppure hanno capito che c'è proprio in mano una polizza che non va? Ecco. Probabilmente o c'è un sottostante specifico che è andato veramente male, ma 25 anni fa sottostanti specifici non ce n'erano, erano gestioni speciali, quindi come tale non mi sembra strano che non abbiano ammortizzato costi. Il tema è che adesso dobbiamo dare un'indicazione all'ascoltatore su quello anni, che deve fare. Allora, un mio consiglio è non rifare una polizza a 25 anni per la semplice ragione che farla con la stessa compagnia. Probabilmente di darsi un'occhiata in giro con altre compagnie o con altre tipologie di prodotti che gli consentano in qualunque momento, è questo che mi permetto di suggerire, prodotti di oggi prevedono l'uscita in qualunque momento, anche 6 mesi dopo la sottoscrizione, quindi questo è il primo elemento. Il secondo, farsi fare, visto che mancano 4 anni, già uno schema del maturato a oggi, così si va a vedere dove c'è stata la perdita, in quali anni, e poi probabilmente si può trattare anche, perché casi di questo genere... Ecco, infatti, esatto, perché siccome comunque è un contratto sottoscritto, che quindi va onorato, fatto 25 anni fa, capire se è possibile addirittura fare una trattativa per spuntare qualcosa di meglio. Vi chiedo solo un attimino di pazienza perché ho suggerimenti per chi è in viaggio, ma questo è veramente un bel caso, tra poco. Allora, stavamo commentando il caso di un ascoltatore di Milano, di Giuseppe, che ha sottoscritto una polizza vita con scadenza 2015, 25 anni fa, ma con un bel po' di anticipo la compagnia lo sta già contattando per così fargli un punto della situazione e per suggerirgli di chiudere in tempi un po' anticipati questo investimento per sottoscriverne contestualmente un altro con loro. Vi leggo anche il caso di un altro ascoltatore, Vittorio, che ci scrive: polizze vita, per me una colossale presa in giro, dal 2000 versati 325 euro al trimestre per 10 anni, pari a 13.000 euro, il riscatto è di 13.645 euro, al di là delle promesse, proprio un bel affare. Mi sarebbe piaciuto sapere quali promesse aveva fatto la compagnia, probabilmente in qualche parte del contratto ci sarà stata anche qualche indicazione su rendimenti possibili. Federica, c'era qualcosa che volevi aggiungere sul caso di Giuseppe? Quello che volevo dire prima era che andavano molto di moda polizze miste, che univano la componente finanziaria a quella di copertura, molto spesso facendo male entrambi i lavori, nel senso che poi alla fine la copertura caso morte era veramente blanda, nello stesso tempo però i costi, oltre ad esserci i costi di remunerazione della rete, della compagnia, c'erano anche dei costi tecnici proprio della temporanea caso morte, diciamo così, e quindi può esserci, forse ci troviamo in un caso simile in cui c'erano delle garanzie tipo invalidità, piuttosto che, e inoltre, come suggeriva anche il dottor Pellicano, può essere che anche il frazionamento trimestrale, come nel caso dell'ultimo ascoltatore, abbia inciso, poiché le compagnie paradossalmente per incassare il premio trimestralmente anziché annualmente chiedono, hanno dei costi, dei veri e propri salassi, perché loro devono pagare un agente che va a incassare la polizza ogni 3 mesi, e questo si traduce in un, non so, anche l'1%, io non so adesso esattamente quali siano i costi dei singoli contratti, però è poco poco conveniente, si tratta quasi di un finanziamento, diciamo. Infatti, no, c'è un altro ascoltatore che scrive: sono un cliente di una compagnia molto importante in Italia che anni addietro per necessità imprevista ha riscattato due premi, la compagnia si è trattenuta quasi il 40%, poi adesso è un po' pasticciato il messaggio, però insomma il 40% è una bella cifra, il tema è capire bene come funziona il riscatto anticipato e quanto onere applica la compagnia. Dottor Pellicano, voi siete così cari? Allora, sui vecchi prodotti sicuramente i riscatti anticipati, e ripeto, che avevano previsto un pagamento di commissione a un agente piuttosto che a un promotore, evidentemente dovevano obbligare la compagnia a recuperare questi costi pagati anticipatamente, e purtroppo... Non è anche la consueta strategia che viene utilizzata per disincentivare il riscatto anticipato? No, forse negli intenti c'era anche quella di disincentivarlo, addirittura tempi arcaici, prima dei 3 anni non era consentito il riscatto e come minimo perdevi un'annualità, quindi voglio dire ancora peggio. Se la immagina che al terzo anno ne perdevi una, tanto vale non aver fatto quelle. Assolutamente, non solo l'ISVAP con i suoi interventi, ma direi anche tutte le compagnie oggi, anche quelle tradizionali, non oggi, già da un bel po' di anni non consentono più questo tipo di operazione, evidentemente, e quindi il riscatto oggi non solo non è penalizzato, ma ripeto, temporalmente è possibile in qualunque momento, anche se il contratto sottoscritto viene tecnicamente definito a vita intera, il cliente può uscire almeno 6 mesi dopo, subito. Ci sono anche delle, sì, la lascio concludere, dottor Pellicano, delle ovviamente situazioni anche di soddisfazione da parte degli ascoltatori, perché chiaramente noi così cerchiamo di tirar fuori le criticità, le questioni problematiche, però c'è un ascoltatore che scrive: ho sottoscritto una polizza 15 anni fa, è in scadenza quest'anno, sono molto soddisfatto del rendimento, è chiaro che è una sorta di salvadanaio, gli interessi non sono altissimi, però insomma evidentemente si è accontentato, ritiene soddisfacente quanto ottenuto. L'anno scorso ho incassato il premio di un'altra polizza scaduta dopo 11 anni, stessa cosa, stessa soddisfazione. Il gruppo, questo lo dico, ha un grande leone in evidenza, chissà quale sarà. Secondo me sono molto seri, ma io ritengo che poi, a prescindere dal fatto che si possa ancora fare molta strada sulla trasparenza, tutte le compagnie siano serie, a patto che si esprima molto chiaramente l'esigenza che si ha di gestione del proprio risparmio. Dottor Pellicano, avete qualche problematica anche con i clienti che non vi spiegano bene quello che vogliono? Capita anche questo? Allora, anche per gli anni, diciamo, di esperienza sul mercato che mi contraddistinguono, abbiamo visto cose abbastanza curiose, no? Ci sono clienti veramente sprovveduti che si fidano ciecamente di quello che l'operatore o piuttosto che la gente gli dicono e non intervengono minimamente in maniera critica nel capire, e quindi diciamo più per fede che non per scelta economica optano per un prodotto piuttosto che per un altro. Ci sono clienti al contrario i quali sono molto attenti al rendimento, addirittura all'andamento del rendimento mensile, e magari passano da un prodotto all'altro qualora questo tipo di prodotto, e in più c'è una terza switchano, switchano, switchano con grande facilità, e infatti non è casuale che anche i prodotti, diciamo, di questi ultimi anni prevedono proprio, insino nel contratto a costo zero la possibilità di entrare e uscire non dal contratto ma da quel tipo di investimento piuttosto che dall'altro, per ottimizzare. Ma sono clienti molto evoluti, molto sofisticati, cominciamo a parlare piuttosto che di retail, the private e corporate, dove anche 5 basis point sono un punto di attenzione per questi operatori. E poi abbiamo purtroppo anche una terza categoria di clienti, che sono quelli molto molto speculativi, molto molto avidi. Mi pare che recentemente abbiamo letto anche di situazioni che hanno visto investitori abbastanza bastonati da situazioni al limite. I furbetti dei Parioli. I furbetti dei Parioli. E evidentemente quando si promettono rendimenti così alti qualcosa di strano. Sì, esatto, c'è. Infatti. Quindi c'è un po' di tutto, c'è un misto. Però credo che il risparmiatore tipo e il sottoscrittore tipo della polizza di assicurazione è colui che vuole mettere appunto da parte del denaro, avere almeno la garanzia che quanto sta investendo gli ritorni, e naturalmente, come diceva anche prima la Pezzati, il ritorno con gli interessi maturati in termini di capitalizzazione, cioè ogni anno gli interessi vanno a crescere il capitale e quindi gli interessi del secondo e del terzo anno. Una sorta di anatocismo positivo, adesso dovrei essere sofisticato. Esatto. Stiamo già andando verso la fine. Alessandro da Bergamo, che aspetta da una vita, mi scusa Alessandro, benvenuto, rapidissimo se ce la fa, grazie. Buongiorno, grazie per l'intervento. Senta, volevo sapere un'informazione. Io ho una polizza che mi scaderà praticamente nel 2014 per durata di 20 anni, e volevo sapere, nel caso in cui io volessi decidere di allungarla, è possibile ancora usufruire ancora del 19%. Ah, Alessandro, grazie. Federica, c'è ancora la detraibilità fiscale? Nel senso che tutti i vecchi contratti sottoscritti ante 2001 sono ancora detraibili, i premi sono ancora detraibili, però penso che sia molto difficile impossibile trasformare contratti continuando a beneficiare della detraibilità. Dottor Pellicano, ce lo conferma? Sì, sui vecchi contratti ce ne sono alcuni però che prevedono il cosiddetto differimento automatico, cioè se il cliente chiede specificatamente di rimanere in contratto, prosegue il contratto con le stesse caratteristiche sottoscritte e compresi gli stessi. Quindi insomma deve andare armato però, di questa terminologia, il differimento automatico, quindi se gode, è possibile gode delle stesse caratteristiche, diciamo, del contratto di base, che rimane in piedi ma che continua ad andare avanti indipendentemente dalla durata fissata. Perfetto, quindi insomma può fare questa richiesta. Noi abbiamo terminato ma abbiamo adesso, prima dei saluti, la rubrica che ci sta facendo compagnia da qualche settimana a questa parte, che terminerà domani in concomitanza con il Salone del Risparmio gestito a Milano. Abbiamo creato questa rubrica dove vi spieghiamo le parole del risparmio, prendendo a spunto le domande che ci chiamate, che ci lasciate alla segreteria telefonica 828 1212. Ecco la pillola scelta oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano le domande del risparmio. Buongiorno, quando sento parlare di fondi sento spesso utilizzare il termine quota. Ecco, potete spiegarmi di cosa si tratta? Grazie, buona giornata. La quota serve per conoscere l'andamento di un fondo. Rappresenta infatti la frazione unitaria del patrimonio del fondo. Al momento della sottoscrizione, al partecipante è attribuito un numero di quote proporzionale all'importo versato. Ogni giorno viene comunicato il valore delle quote dei fondi gestiti. Tale valore viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione il giorno precedente, così come risulta dai dati della banca depositaria. Salone del Risparmio, a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis, salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato le domande del risparmio. Salva Danaio termina qui, non ho tempo per salutare direttamente i nostri ospiti, ma li saluto. Federica Pezzatti, Plus 24, Il Sole 24 Ore, Maurizio Pellicano, direttore generale di BNL Vita. Sul tema delle polizze vite torneremo senz'altro al più presto. A tutti, buona giornata.